perdonare non so. Lei è tu, dille che non si può buttar via gente senza cuore per un finto amore in un'auto blu. E niente, dice che tu manco apri e c'è sta la gente in chat, tipo che ne so, appare uno Rizzard, non so se mai la gente in chat, che poi c'è sto Rizzard, no, che ogni tanto mi rimprovera, vedo la gente in chat, tu cosa, no, perché tu spammi troppo, vedo la gente in chat. E poi c'è Carmine che è lì che dice che in chat la gente che sta per diventare bipapa. Minchia, bipapa è pesante. Bipapa diventa, è impegnativo. No, se c'erano i due papi, invece lui diventa papa due volte. Minchia. O Papa Don Prigio, anche dicevano quella canzone famosa. Papa nero con tre palle, bipapa nero con tre palle sarebbero sei palle, ti rendi conto? Già. Mamma mia. Vabbè, comunque fra un po' arriviamo, sempre che guardi si degna, insomma, di... sono il 56, prima del 59 non arriva più. Sapere se ci sentite, ecco, se ci sentite, questo è importante. Mamma mia, sembra quasi Bertolo a fine puntata. E adesso vi lascio con un brano meraviglioso, ragazzi. Merdaviglioso. Perché? Meraviglioso, si chiama Rolls Royce. No, mi alzo e me ne vado. Di Achille Lauro. Mi alzo e me ne vado. Porco due. Vestito bene Michael Kors. Perdo la testa come Kevin, a 27 come Amy, Rolls Royce come Marilyn Monroe, chitarra in perla Billie Joe, sono per terra come Hendrix, viva Las Vegas come Elvis, oh, Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce. Non una vita è rock and roll, non una musica un miro, ah, Axl Rose, Rolling Stone. Non una è un drink a Borgaston, non una è amore a un sexy shop, oddio, un sexy shop, sì, sì, è un Van Gogh. Rolls Royce, Rolls Royce. Voglio una vita così, voglio una fine così, se la vivi. Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce. Voglio una vita così, sì, sì. Rolls Royce, Rolls Royce. Voglio una vita così, voglio una fine così, se la vivi. Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce. Non è foglia, non è solo vivere. Non sono stato me stesso mai. No, non c'è niente da capire. Ferrari bianco, si Miami Vice. Di noi che sarà? Rolls Royce, Rolls Royce. Di noi che sarà? Rolls Royce, Rolls Royce. Rolls Royce. Solo per dare fuoco al mio cuore di carta. Dio ti prego salvaci da questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi. Quanti in quanti in Q40 giù dai giardinetti. Vendo pezzi di muro per giovani architetti. Vengo, tu se vuoi m'aspetti. Vengo dentro al tuo piatto e se vuoi te la scarpetti. Ma fu buono mezza tavola, ti invito a cena. C'ho 40 micra in culo, tipo quarantena. C'è tua madre. Perché lo dovete dire gridandolo a tutti quanti durante, porco, no, durante le notti estive, che noi vi rendiamo ancora più bollenti con la musica di Runtime Radio, che questa è la musica giovane che metteremo da adesso in poi, perché noi anche dobbiamo adeguarci alla bellezza del momento. Mangio due pezzi per volta tipo biscotti. Tu fai il gangsta con la pancia piena G-Scotti. Q40 volte non fotti. Cristo ha fatto strada senza flow, pensa che svolta. Ci hai provato pure tu che hai fatto bancarotta. Se mi bussi bussa prima alla mia porta. Mi fai schifo pseudo troia, prendi botti in botta. Questi rapper senza causa non sono talenti. Avrebbero mangiato meno droga e rifatto più denti. Tu non sai neanche rappare, parli di argomenti. La tua crew fatta di stelle, si stelle cadenti, sto sopra. Giù fa freddo, lascia che ti copra. piace rapper rilassato tipo top yoga, top roba. Non capisco un cazzo al check, check prova. Giolle grosse con i miei quando pisciavo, nuova scuola. Faccio musica del cazzo che mi pare piace. Mai snobbato nessuno, fammi fumare in pace. Mi odi tanto che sei scarso, cazzo mi dispiace. Chi sa fare questa roba, mica perde tempo, tace. All'inferno, vivi da leggende, vivrai in eterno. Runtime Radio presenta ottimisti genericamente mortificati. Un'ora e mezza così. Senti come sfuma, senti, fa anche il ducking. Perché noi abbiamo la regia automatica umana, che è una cosa che abbiamo solo noi, che probabilmente Radio DJ ci comprerà a breve, o anche RDS o altri, se non gli viene l'enfisema prima. Io voglio vedere quanto riesce a durare senza morire di infarto. Quindi io continuo, lui continua. Non potete capire le gestualità perché alla radio non si vedono, però credo che gli è rimasto lo shampoo di lì ormai, so cose. Buonasera a tutti. Ah, belli e brutti, dai, facciamo la roba romanesca. Marco Gualdi, c'è qualcosa che non va, che secondo me, te dirò anche agli ascoltatori che non lo sanno, abbiamo fatto un aperitivino insieme prima. Secondo me non è sopravvissuto allo spritz. No, ma gli hai sfasato i tempi, secondo me il fatto che lui è 7:30 ha bevuto lo spritz. Ma guarda che quando glielo ho detto lui è stato subito: ah sì arrivo, c'ho bisogno di alcol, mica ho costretto. Ma ti ha detto almeno perché c'ha bisogno di alcol? No, ma io quando si tratta di alcol non faccio mai domande, perché capisco insomma che poi le domande si fanno dopo, quando uno è ubriaco che ha perso i freni inibitori e dice le verità più nascoste. Si sente strano, che vuol dire? Chi è che si sente strano? No, Gualdi da moda una vita si Diego sente strano. Diego Margen dice che si sente... Scusate, stavo ruttando, ma questo in radio sapete che sono cose che non si dovrebbero fare. Di Gurgitino, ma scusa, dov'è che lo dice che si sente strano? La chat. Bene, a me non si è neanche aggiornato, sono rimasto a trap. Ecco, guardate che forse Gualdi è vivo e lotta con noi. Diego, spiegaci meglio, si sente strano in che senso? Specifici. E soprattutto, tutto strano, la musica, il background, Simone e io, solo io, solo Simone, solo il background, Simone il background, io il background, qual è la combinazione? Però ci dice Peppe Rizzardo, non vorrei dire, ho le casse in saturazione, quindi siamo troppo carichi, io abbasserei un po' il masterino, eh? Strano però, strano, molto strano. E infatti adesso siamo un po' meglio. Diteci se va un po' meglio. Sono ancora sul rosso. Aspetta che mi abbasso direttamente da qua, un pochino, Io non mi abbasso perché se mi abbasso di più non arrivo più al microfono. Adesso si sente un po' meglio. Marco Gualdi. Manco Gualdi. Ciao. Così quasi ben arrivato. fa caldo qui dentro. L'entusiasmo. Sì, scommessa che se accendiamo il climatizzatore fa freddo, lo dobbiamo rispegnere? Scommetti che se accendiamo il climatizzatore salta la corrente. Abbassare il gain, sì, ma quanto ancora? Ma il gain non lo tocchiamo dalla notte dei tempi, esatto, lo possiamo anche, possiamo abbassare un po' i volumi. Abbassare così. E ci giochiamo noi. Allora, io qui dal meter vedo che non siamo più sul rosso, quindi in teoria ci dovreste sentire bene. Che bello, che bello, quanto tempo che siamo in età. Vabbè, noi facciamo le prove in diretta, ci dovete scusare, perché la legge automatica umana che ci porta a questi livelli, a questi nuovi traguardi della scienza. Gualdi, com'era il... cosa abbiamo preso? Lo spritz, com'era lo spritz? Lo spritz era divertente, stabilizzato, stressante, cosa? No, per niente. Perché ti ha sballato i tempi, sei arrivato tipo fa caldo, 5 minuti di ritardo. Fa caldo. Vabbè, non è una novità, lo fa anche da sobrio ultimamente. Fa caldo. Ma il mondo si domanda ancora perché avevi bisogno di alcol? Perché è sempre bello. Perché sta spendendo un sacco di soldi e questa cosa lo fa soffrire. Tante cose. Ho bisogno di affogare i miei dispiaceri monetari nell'alcol. Io mi sento, però è normale? Sì, io ti sento. Beh, è da una vita, da quando ti conosco, che so che non ti senti, quindi direi di sì. Ha il braccino corto e gli dà fastidio spendere soldi. Allora, questa voce dell'oltretomba che non potete bene percepire, perché già è, come dire, non soltanto è lontana, è anche bassa, ci fa notare che Gualdi ha questo problema di tasche a chiocciola, ci dicono. Certo. E se lo dice Michela, che lo conosce da una vita, forse ci dobbiamo credere. C'era detta la donna delle pulizie che... Noi lo chiamiamo Marco Matto, perché lui per noi c'è sempre stato. Questo devo dire. Però se prendeva 2 ore di commissione. Per qualcuno, vabbè, per quello qualcuno specifico, diciamo. No, ma che uno. Però poi quando deve spendere per se stesso... Sì. Io sono autoegoista. Io sono autoegoista, non spendo per me, vedi? Sì. Soprattutto... Ho paura. Vai, funziona. Fare il direttore dei lavori... Caldo. Lo stressa. Fa caldo. Comunque, Marco Gualdi... Io sono il direttore dei lavori più buono del mondo. Marco Gualdi... Io non ci vado da una settimana, adesso quindi non so che cosa è successo. Io ti dico una cosa, adesso non dirò altro, non farò previsioni, perché bisogna essere tantissimo scaramantici nella vita, ma forse ti sto trovando un inquilino. Non dico altro. Ma lui non lo vuole. Ma io non lo vuole. Ma come non lo vuole? Non lo vuole perché dice che forse ci va lui. Addirittura potrei andarci io a casa mia. Ah, beh, allora alziamo le mani, insomma. Ci starà a crede, vabbè. No, vabbè, ma come dice, la mamma Gualdi cucina troppo bene per andarsene. Perché dovremmo spargere amore sulle pareti. Pensa che a un certo punto ci ha fatto un spergetelo subito. Anche Matteo. Quasi quasi ci vado. No. Poi mi cucina dentro casa, troppo vicino a casa, poi no, scherzi, troppo vicino a casa dice mia, tanto poi. Vale stare a casa a quel punto almeno. Esatto, perché poi si rientra facilmente, si sfrattano i gatti, si manda via tutto, c'è un casino. Quali gatti? Quelli che stanno qui nella sua camera, che perché è diventata la camera dei gatti ormai. No, io pensavo dicessi tu casa tua e casa di tu. No, ok, vabbè. La camera di gatti, tranne quando viene Alex, e la camera di Alex e dei gatti. O quando succedono altre cose con luci rosse che non spiegheremo. Se dovesse arrivare Davide Gatti, questa è la stanza sua, per dire. Sì. Perché dalla stanza dei gatti alla stanza di gatti il passo è breve. Esatto. No, invece vogliamo spiegare come mai l'asset di questa puntata vede questi due signoroni, questi onnipotenti. Il suo lavoro, Mercedes, vada. Abbiamo... Scusate, non vorrei dire, ma state a Verona? Piazza Erbe. Siamo vicino a Piazza delle Erbe, sì, allora però molto rotondo. Lo spritz invece andando a bere il vino dei Castelli e dai, cazzo, c'ha ragione. Perché bisogna andare ai castelli? Guarda, si arriva prima a Verona. Comprende una cosa, io sono perfettamente e pienamente d'accordo con te. A metà con il mister. Ma qui se sono tutti milanesizzati, capito? Qui si mangia il sushi, si fa lo spritz, la pericena. Loro, perché pizza e sushi insomma. No, no, mai, il sushi è contrario al sushi. Al pizzi. Ragazzi, prima di iniziare la puntata con tutti i temi che ci abbiamo, no? Perché ci abbiamo un sacco di temi. Oggi c'è stata la prima prova della maturità. Esatto, abbiamo che temi era? Uno era su Bartali, se non sbaglio. Sì, l'altro su Coppi. Su Coppi, cioè. Dai, che te ridi? Sto cazzo, era su Bartali. No, davvero? Su Bartali. No, è vero, una delle tre c'era su Bartali. Sì, è vero. Oh, che cazzo, è vero, a Bartali. Ma no, su Coppi, però. No, su Coppi no. Fausto Coppi. No, allora niente, è venuto Alex, il nostro amico Alex Raccuglia, non sapete ogni tanto. Ma noi ha fatto il tema su Sciascia. Ma sì, cazzi. Sciascia la mafia, viva la mafia, avrà detto ovviamente. Chi è Sciascia a confronto della mafia? Sciascia Grey, come chi Sciascia è? Sciascia Grey nel mulino che vorrei. Esatto. Vabbè, insomma, per la prima volta, ragazzi, e qui abbiamo sentito la mancanza di Cusella. Cazzo, Sciascia Grefi. Perché per la prima volta della nostra vita, lunedì sera, e lo dobbiamo ammettere, Alex è testimone. Porca troia. Alex, il primo, siamo stati sconfitti dal sushi. Però perché... diciamo che c'è stata un'entrata a gamba tesa di Alex. Di Alex, perché... che ha preso perché noi abbiamo fatto, sì, abbiamo fatto una bella ordinazione. Non c'era il pesce pulitore Cusella, praticamente. Esatto, a un certo punto se ne esce, mi prendo una barca, così. Cioè, dopo che avevamo praticamente ordinato l'improponibile. Esatto. A un certo punto l'equivalente di due barche. Voglio di più, ordina sta barca, arriva. Perché sta barca... chiedere un pezzo alla volta, insomma. Esatto. La barca che non era la barchetta che non finiva mai. Balcone. Esatto. Quando è arrivata l'abbiamo guardata tutti con il terrore. Ha fatto la fine della Costa Concordia, praticamente. No, magari. In realtà Alex ci ha anche provato, perché lui ha detto, se mangiamo con calma forse ce la facciamo, non so. Però il ristorante era chiuso, praticamente. Il ristorante dice, oh, ve ne andate? Sì, io mi dico soltanto che... siamo stati talmente sconfitti dal sushi che a un certo punto praticamente anche il Bangla ci ha avuto pena di noi, cioè ha detto se ve ne andate subito non vi faccio pagare, no, ha detto guarda, se ve ne andate, se scappate me le mangio io queste cose, scappate, che forse ci guadagno, ha detto, esatto, anche esatto. Quindi si è preso la barca e se n'è andato. Bellissimo che ormai anche nei ristoranti, nei finti giapponesi, perché ovviamente tutti i cinesi, i camerieri sono Bangla, perché ormai vengono via con poco. Anche persino i cinesi fanno sfruttamento del lavoro di categorie ancora più in, diciamo così. E comunque ieri abbiamo fatto mangiare, no, l'altro ieri, quando l'altro ieri abbiamo fatto mangiare un ragazzo del Bangladesh, quindi siamo contenti. Siamo mangiato sushi. E lui si era presa la barca, si è messa sotto la maniera. Ma scusa, i francesi fanno, no, con la barchetta, ma gliel'avete con spiegato che la barchetta non si mangia, cioè, non vorrei che poi dopo, è vero che sono fibre, però non vorrei che poi si è mangiato tutto, che problema c'è? Vabbè, questo ristorante tra l'altro è anche famoso perché c'è la proprietaria Maruvagia, perché è una cinese che odia tutti e ti guarda con l'odio, cioè ti esprime proprio da subito il disprezzo, ti fa capire che lei è lì, sì, è la padrona del ristorante, ma lei ti odia fondamentalmente. Vabbè, d'altra parte una cosa non esclude l'altra. Però noi ci siamo resi conto che probabilmente, perché vedete che nella vita c'è speranza per tutti, c'è cazzo da fare. Probabilmente la padrona Maruvagia ha incontrato, cioè è stata cosparsa d'amore da qualcuno, perché era solitamente gentile. In un trionfo di Bukkake, che vorresti dire? So, sì, era solitamente gentile e anche generosa, cioè, e sorrideva, quella è la cosa bella. Certo, perché ci ha sputato nelle barche proprio. Così, barca. Questo è successo a me con l'ultima volta che ho mangiato il ramen. Che il Bangla. Lamen. Il Bangla l'ha chiesto. Ti piace il ramen? Sì, ti piace il ramen. E rideva su tutti i baffi. Questo ramen. Ti è piaciuto questo ramen? Ti è piaciuto questo ramen? Chiede. Ma sì, il ramen. Una volta mi successe allo All You Can Eat, che c'era a Monte Rotondo Scalo, quello con il wok. Che all'epoca era ancora, diciamo, walk you can eat. Che all'epoca ancora, insomma, ci si poteva bene o male andare. Io e Valentina ogni tanto ci andavamo. Una volta la cameriera, che bene o male ci conosceva, perché cioè, ci chiede: meglio com'è là? No, buono. Ma meglio adesso o meglio altra volta? E noi ci siamo chiesti per anni perché ci ha fatto questa domanda. No, trovare mai le risposte. Però certo, non ci siamo più andati, c'è da dire. E tanto oramai è inutile, oramai quello da succedere è successo. Esatto. Beh, ma bene, sì, esatto, ma no, nel frattempo anche tipo chiuso e riaperto, ma, insomma, non mi sembra... Perché non hai risposto alla sua domanda, per cui esatto, è andato a piccolo. Esatto, ma che facciamo? Esatto, non si è data la pace, questa cosa è successa. Cioè, adesso cosa facciamo? Andiamo avanti con il nuovo piatto o torniamo a quello vecchio? Ed è successo il paradigma. E niente, lì praticamente, perché voi dovete sapere che a Monte Rotondo c'è un ristorante cinese storico, anche se non è proprio quel, cioè, perché in quel ristorante cinese c'era un ristorante cinese storico che poi è diventato tutt'altro, sushi, si è trasferito, roba del genere. Poi dopo ci hanno provato a fare altri locali fino a che non sono arrivati i nuovi cinesi, altri che cinesi l'hanno riaperto, che l'hanno riaperto. Che praticamente anche qui c'è la signora Maruvagia, perché secondo me io mi sono fatto un'idea un po' meno Maruvagia ultimamente, pure deve essere stata cosparsa. Io mi sono reso conto che non è che sono cattivi, è che qui si parlano proprio così. Cioè, fra di loro, dentro la cucina. Sì, sì, sono proprio un po' così. Tu senti quando andiamo con lui, con Walter o con Marco, roba del genere, e lei prende l'ordinazione, porta l'ordinazione in cucina e poi comincia... E poi sente schiaffo, tipo frusta. Allora tu dici, vabbè, ma cazzo sta sotto... Mettendo. Sta sotto mettendo il cuoco, che sicuramente è un Bangla anche il cuoco, no, chiaramente. E invece no, secondo me è proprio un tono di lingua. Diego dice, vabbè, sempre rispondere meglio adesso, se no ti fai nemico il cinese e sei fottuto. Non lo so, io l'ho percepita più come una domanda tra bocchetto, quindi non ho avuto il coraggio di rispondere, però... Invece lo sapete che la prima volta che io ho portato Michela, mia moglie, a cena, siamo andati a un ristorante cinese. Guarda, non ce l'avevamo tutti sti dubbi, cioè ce lo sospettavamo. Lei pure piaceva al cinese, sono andati al cinese e lei prese questo piatto del manzo che gli è piaciuto talmente tanto che ne ha rivoluto un altro piatto. E gli fa, dice, che mi riporta il manzo? E la cinese sa, guarda, manzo, cioè tipo, sei sicura? Sì, manzo, manzo, vado. Secondo me era tipo sorcio, penso. Dobbiamo dire se in giapponese la parola manzo significa qualcosa. Perché in giapponese? In cinese. Pardon, sì. Vabbè, vediamo. Io ecco, è una di quelle cose che è meglio non scoprire, anche se sono passati degli anni ormai la digerito. Magari ha insultato la madre, che ne so. Ah, no, ma lei che diceva, ma ho capito, non metti manzo su, cioè, sul menù se poi io dico manzo e tutto offendi. Vabbè, magari no. Per loro è impensabile ordinare due volte la stessa cosa, che ne sai, gente strana. Sì, beh, questo ci riporta al famoso racconto del thailandese a Berlino. Dove noi eravamo. Attenzione, scusa solo un secondo, Manzo. A proposito, nel frattempo andiamo a vedere. Oggi sta giocando. Significa camminata lenta. Quindi. Manzo, camminata lenta. Quindi tu gli hai chiesto di camminare lentamente. Ah, quella fa. Ah, devo mangiare. No, comunque... ci ha fatto caso che quella volta che gli hai chiesto dell'altro manzo ci ha messo tre quarti d'ora per uscire dalla stanza. Io ho pensato perché stavano uccidendo. Invece no, stava camminando lentamente. Okay. No, comunque. Questo ci riporta ovviamente al thailandese a Berlino. Dove noi eravamo in 10 in tavola, avevamo ordinato 14 portate e non si capacitavano, cioè nel senso sono venuti 3-4 volte a dire voi 10, più danze 14, cioè non tornava, per loro si ordina una cosa. Ma è proprio proibito fare di più, cioè. Ma secondo me non sono i cinesi, sono i tedeschi che sono strani, perché lì sono, sai come sono? Sono molto, come dire, pignoli su queste cose, sono molto ligi alla logica, sono un po' vulcaniani i tedeschi, quindi se siete però quelli 10... erano canadesi, cioè vuoi dire. Ho capito, però, ma sai, abituati, guardi, come dire. Racconta che sono venuto il nemico più grosso, il mini boss, mini boss, poi il boss. Esatto, è venuto praticamente il minion, poi è venuto il mini boss, il boss e poi è venuto il mostro dell'ultimo livello. Ma la signora Maruvaggia in Berlino non c'era? No, perché era thailandese, invece forse il cinese proprio che... Ah, la Maruvaggia, che poi diciamo Maruvaggia come se fosse giapponese, perché la traslitteriamo con le sillabe. Il ristorante è giapponese, quindi Maruvaggia. Maruvaggia. Anche se in realtà è un ristorante gestito da cinese. Da, come praticamente la totalità del... Eppure sarebbe bello scoprire che c'è un ristorante giapponese da qualche parte, qui intorno, gestito da giapponesi. A Roma ce ne sono un paio che sono proprio quelli storici, quelli in centro, tutti gli altri che non te puoi avvicinare, esatto. Sì, però gli altri sono tutti quanti gestiti da cinesi. Che non fanno lo you can eat neanche se t'ammazzi. Cioè. Beh, ma d'altra parte, ragazzi, il sushi di vera qualità è anche un po', come dire, difficile per aspettarsi lo you can eat. Beh, però, nel senso... Ne ho individuato già uno che potrebbe essere buono. Vabbè, ragazzi, però andando oltre, come dire, esatto. Ma parliamo di un bel panino con la porchetta. Non parliamo mai di Luigi il paninaro. No, che Luigi. Oggi a Grotta Ferrata io e Michele abbiamo pranzato col panino, la porchetta e il pomodorino sott'olio dentro. Il pomodorino, ma quello alla calabrese? Da Fedora. Pomodoro secco. Fedora è una distribuzione Linux. No. Sì. Fedora è un porchettaro storico, insomma, lì da Grotta Ferrata. E mo c'è la figlia, però. Che è Fedora, appunto. Oh. Che è Fedora. No, che è Centos. Vabbè, ma questa è veramente di nicchia, è brutta questa. Spero che non l'abbiano sentita. Spero che non l'abbia sentita Cusella. No, invece volevo dire, ragazzi, sapete che ci sono il calcio italiano in questi giorni, sia l'Under 21 che il femminile ci sta dando belle soddisfazioni. Oggi, per esempio, stanno giocando Italia Under 21 contro Polonia Under 21. E potrebbe essere, diciamo, un'altra bella occasione, perché sia l'Under 21 di Ribiaggio che la nazionale femminile stanno veramente, come dire, ma anche in realtà anche la nazionale maggiore di Mancini in queste prime uscite per gli europei si sta comportando meglio del previsto. Devo dire che forse stiamo vivendo una fase di crescita dopo veramente anni di buio. Forse donne is the new man. No, ma ti ripeto, anche le altre nazionali stiamo andando benino. Partiamo dalla nazionale di Mancini. La nazionale Mancini tirano tutti di sinistro. Sono andati praticamente già a giocare con la Grecia 3-0, che potevano essere pure 15-0, cioè non sarebbe cambiato niente. Tutti poi la partita dopo giocano con la Croazia. È arrivato Leo Vargione che dice ciao Ciccini, ciao grande Leo. Abbiamo giocato la seconda partita con la Croazia, se non mi sbaglio, giusto? La squadra di Dzeko, la Croazia, non mi ricordo più. Vabbè, comunque sì, quelle parti là che dopo metà del primo tempo stavamo a perdere 1-0. Ciao, vabbè, vedi, allora era tutta una finta. Era tutta una finta. E invece, pure io. E invece questi nel secondo tempo poi hanno fatto 3 punti. Si sono fogliati. Hanno fatto... bella partita pure, cioè nel senso. E qui insomma alla fine. Che con Mancini come allenatore non è una cosa così ovvia da dire. Infatti, io non sono un estimatore. Non però. Sei mai stato, però. No. Vediamo, no? Perché pare che i presupposti ci siano. L'Under 21. Che sta giocando l'europeo, tra l'altro in casa, che si gioca in Italia. Sì, stanno giocando a Bologna molte partite, infatti. Esatto. E praticamente parte subito la prima partita. Salutiamo Lobby Frontali, che però capita, ciao Lobby. Chi gli capita? Gli capita la Spagna, quindi. Che voglio dire, non è proprio. Tipo da 15 anni. Non è proprio la Grecia, ecco. Esatto. E invece gli diamo rotto il culo. Cioè, erano partite. Ah, io ho iniziato a vedere la partita. Tempo 3 minuti, questi già avevano fatto un gol spaziale, tipo da fuori aria sotto il 7 preciso. Dico, capita, ma andiamo. Invece anche lì Tomi quatti quatti, anche se la prima partita ci hanno tolto un gol bellissimo col VAR, però devo dire che ci stiamo, come dire, riprendendo ciò che è nostro, come direbbe Savastano, insomma. Vabbè, però insomma, vabbè, so che il calcio è un argomento scacciafiga, infatti 78.000 ragazze sono scappate. Vai. Tanto ci stanno le ragazze. Lo dici tu? Con la nazionale femminile. Nazionale femminile, di cui 3 partite io le so viste. Beh, devo dire che certo, allora, il calcio è diverso, diciamo ma una cosa, perché fanno dicono, spettacolo. Ma fanno schifo quella perché è una cosa della speculazione, in casa. Boh, lasciamo da parte tutti questi discorsi, no? È uno sport che non è diverso, è uno sport al femminile, quindi è chiaro che c'è meno potenza, c'è meno velocità, è forse anche meno esasperato, però c'è molta tattica e molta tecnica, quindi alla fine, anche se è molto più lento come gioco, alla fine è anche divertente, perché si vedono cose carine, cioè poi alla fine, a volte, andando di una cosa che è diversa dal calcio super esasperato, non è una cosa sbagliata. No, ma ripeto, io mi sto divertendo nelle occasioni in cui riesco allora, a vedere qualche partita. Le prime due partite l'Italia... a mani basse, no, mani basse, vabbè, ha vinto 2-1 con l'Australia, ovviamente l'Australia strafavorita rispetto all'Italia, perché sì. Voi dovete sapere che noi fino all'altro ieri, dal punto di vista della tradizione calcistica femminile, non esistevamo. Dopo Carolina Morace il niente. Esatto, poi hanno costruito sta nazionale che ci hanno lavorato veramente per anni e roba del genere, che praticamente ha fatto una qualificazione al mondiale spaccando il culo a chiunque. Poi è arrivata praticamente al mondiale la prima partita contro l'Australia, che era su strafavorita, vittoria per 2-1 dopo che loro erano passati in vantaggio e vabbè. Seconda partita contro la Giamaica, abbiamo fatto 5 gol. Ieri sera io sono visto Italia-Brasile, dove l'Italia ha giocato indiscutibilmente meglio. Meglio, Brasile, sì, esatto. E dove al Brasile gli è stato dato un rigore politico per farlo qualificare. Sì, perché l'Italia è passata da prima del girone comunque per la differenza reti, però effettivamente così è passato anche il Brasile. È passato pure il Brasile, perché pur arrivando terzo, è arrivato terzo a 6 punti, quindi passano anche le terze migliori. E vabbè, quindi devo dire, non è come quelli, non sono come i mondiali per dire maschili, dove dovete non andare a fare perché sono troppi. Ce ne sono un po' di meno le nazioni, probabilmente. Credo che il meccanismo sia uguale. Lo schema è lo stesso, cioè sono lo stesso numero, ma adesso pure ai mondiali non maschili si qualificano le prime due dei gironi più la Russia. Le tre migliori terze, mi pare. Quindi cioè, alla fine è lo stesso meccanismo. Le seconde no, vengono fatte fuori. No, le seconde si qualificano. Okay, no. Le prime due più le tre migliori terze di tutti i gironi. Cioè, L'Italia credo che si qualificò come migliore terza, mi ricordo male. Abbondante, come al solito. Quasi quarta. Come nel 94 tutti dicono siamo andati in finale, sì, ma ci hanno pure ripescato, che è una cosa che nessuno sottolinea abbastanza quando si parla del fenomeno Sacchi, quelli che sono stati ripescati non si è mai capito perché, è stato proprio il mondiale dell'82, perché l'Italia in teoria non aveva superato quel girone, il girone di qualificazione, poi vabbè, è passata l'Italia, vabbè sono quelle cose, insomma, che comunque, quando le fa il Brasile non ti domandi. Io sto dicendo che probabilmente chiaramente sta nazionale, che è giovane, che è inesperta rispetto alle tedesche o agli Stati Uniti, che so, comunque professioniste, roba del genere, forse non arriverà. Però secondo me secondo me ai quarti di finale, secondo me anche alle semifinali ci arriva sta squadra. Ma che vada un quartino di finale. Comunque. E salutiamo zio Mischi che ci ha appena raggiunto e salutato. Senti, ce l'hai tu un papà perché oggi. Sì. Comunque però la polemica stupida perché capitano una negra l'hanno fatta. Vabbè, ma cioè voglio dire, ragazzi, non so perché se avete italiana. Non questa so se domanda, magari me lo sono fatta io questa domanda, mi rispondo. Magari è una strozzata. C'è da dire che all'epoca la quota nera. Ah, ok. La quota nera. La quota nera è un'altra cosa in politica ultimamente. La quota nera rosa, però. Quindi rosa nera. No, però sa per forza di soffermi. Guarda, volevo dire che comunque, se non so se vi ricordate, ormai tanti anni fa, quando Danny Mendez vinse Miss Italia, la polemica fu uguale. Ma questo è nera, un po' vince Miss Italia. Ora, non badare al fatto, al tecnicismo, che lei non era nata in Italia. Credo avesse la cittadinanza, però tecnicamente non era nata in Italia. Però insomma, io comunque, cioè, Sara Gama, che è il difensore centrale, che è il capitano, no? E che è stata ovviamente insultata su Instagram perché stava al centro della foto con la fascia da capitano. Perché sta mezzo sta negra? E devo dire, pure una bella figliola, insomma. Ma devo dire, cosa che invece non si può dire, ma lo dico, cioè lo voglio dire tra virgolette con rispetto, dell'atleta che adesso vado a ricercare il nome, perché ovviamente non essendo non ha un nome abbastanza facile, che per praticamente la Federazione Internazionale dell'Atletica, dopo tutta una serie di analisi e contranalisi, hanno detto biologicamente un uomo. È una donna, però biologicamente è un uomo. Che significa un cazzo, fondamentalmente. Allora, però, qual è il discorso? Che ci sono tutta una serie di transgender che lo sono per vari motivi appunto biologici, questa donna... la fase di transizione è anche fisiologica. No, aspetta, c'è un problema. Qui nessuno ha mai detto che era in transizione. Lei dichiara di essere una donna, cioè ha dei livelli di testosterone altissimi, che il tuo e quello di Gualdi insieme sommati non ci arrivano, e chiaramente le prestazioni sportive che ottiene gareggiando contro altre donne sono fuori proporzione, perché di fatto è un uomo. Posso dire una cosa maligna? L'atleta del Brasile ieri sera a tirata di rigore, ma voi sapete, il Brasile insomma è anche rinnovato questa cosa, per me è tutto tranne che una donna quella, cioè. Ma guarda che anche nei paesi dell'est, del blocco ex sovietico, in Cina, anche per me questa cosa c'è un pisello grosso, ragazzi, ma infatti uno non lo fa per un discorso tra virgolette discriminatorio, però è chiaro che si deve competere alla pari. Questa donna praticamente Mendes, Repubblica Dominicana, ne ho viste le fighe io che voi umani, vabbè. Io dico, ma no, comunque, può sembrare un discorso, ma non lo è. A me Danny Mendez non è mai piaciuta particolarmente, non l'ho trovata così bella. No, non così bella da essere Miss Italia. Una più ragazza bella probabilmente di alcune Miss Italia che ci sono state dopo. Io te devo dire che le Miss Italia belle, cioè nel senso belle, che tu dici belle, io proprio quella, avrei scelto proprio quella. No, guarda, io non è, negli ultimi anni onestamente non ti saprei neanche, tant'è che le Miss Italia degli ultimi anni, se ci pensate, proprio non lasciano proprio il segno, cioè tu non sai chi è neanche il giorno dopo dell'elezione. Esatto. Però una degli ultimi anni, secondo me, veramente molto bella è Miriam Leone. Ma di che state parlando con questo testosterone? Allora, c'è questa atleta che praticamente è una donna, però praticamente ha dei livelli di testosterone molto alti. Adesso va Walter Gruber. Però in effetti ci sono questi casi di donne in diversi campi, ambiti sportivi, che praticamente hanno un eccesso di testosterone. Lei la Zemaia, adesso non mi ricordo come si chiama, sto cercando la notizia ma sono passati un po' di giorni, non è facile trovarla. Con tutto il rispetto, anche con le foto, insomma, io proprio donna, cioè non voglio stereotipare. Se c'hai il testosterone, grazie al cazzo. Scusa, tu parli di donne e di rispetto, capito? No, petto, nel senso sì, no, senza petto, no, cioè, no. Vabbè, comunque, prima di entrare in questione, poi arriva Mercedes e ci spara a tutti. Vogliamo parlare di quel signore lì, di quei due signori? Aspetta, allora va bene, zitti tutti. Trumpappà. Mi mancava. Ditelo che mi mancava, perché mi mancava come un herpes, guarda. Perché non ne parlavamo da tanto, però non ne possiamo più. Ma ormai almeno non parliamo di Salvini per una volta. Trump ha dichiarato guerra al mondo. Trump intanto si è ovviamente formalmente ricandidato per le elezioni del 2020, e lo ha fatto adducendo come argomento il fatto che meglio di lui ha fatto soltanto George Washington nella storia degli Stati Uniti. E questo già vi dà la misura dell'uomo, cioè. Ma poi la cosa bella è che Trump, che è quello che costruisce muri per combattere l'immigrazione, quello che mette dazi su chiunque, ai cinesi, all'acciaio tedesco, a destra, a manca, eccetera, ha avuto il coraggio di dire a Mario Draghi, presidente della BCE, che sostanzialmente lui favorisce le esportazioni praticamente abbassando il tasso di interesse sull'euro. Cioè, praticamente gli ha detto che così non è corretto. perché una politica che finché la fanno gli americani è giusta e sacrosanta, ha messo in un concesso che la stessero facendo altri, diventa sbagliata. Imbarghi per 50 anni alla nazione e continuano a imporre embarghi a destra e manca, dico no, ma tu non lo puoi fare così, non vale, come per dire, se lo possono fare solo gli Stati Uniti, cioè veramente questa visione è un pelino egocentrica del mondo, vabbè, che è un po' americani, è così, Ho capito, ma il problema di Trump è che non è semplicemente un americano, è un imprenditore americano plurifallito, peraltro pluribroke, perché non è esattamente, come dire, uno che non ha mai fatto una bancarotta in vita sua. Broke è quello di The Beautiful. Sì, è, quella... è uno che comunque con le bancarotte ci guadagnava, insomma, e anche con la Figaro. Proprio era bancarotta. Io so solo che oggi nelle immagini in cui si vedevano lui e la moglie Melania, appunto a questa convention di ricandidatura, lei ormai proprio si è scordata come si sorride, è proprio una maschera non ce la fa proprio più. No, Marco, Botox, sì. Non è proprio un'espressione affranta, non ce la fa proprio più, secondo me. Giustamente Rizzard dice che dopo per un papà dobbiamo fare la sigla Salvini papà. Ma Salvini tocca trovare un'altra sigla, poi la troveremo, dai. Salvini per Peppe. Faccetta nera. Ma in realtà ce l'ha fatto. Gli piacerebbe, le sigle, poi dopo. Potremmo fare faccette merda, però. Faccette merda. No. Potremmo. Hanno recentemente premiato Gianni Minà. Sto cazzo. A Napoli. Oh. Se gli hanno dato la cittadinanza. Era lui, Fidel e chi altro? No, era Sergio Leone. Ma voi potete dire quello che cazzo, ma per me Gianni Minà è stato uno dei più grandi giornalisti di sto mezzo secolo. E tra l'altro ancora oggi nell'ambito dello spettacolo sicuramente sì. E ancora oggi quello ha fatto un'intervista storica a Fidel Castro. Un'intervista storica soprattutto oggi. Come direbbero a Napoli, e ci parlo. Lo scavo. E comunque lui ha detto una cosa, per me è la proprio sacrosanta sta cosa, perché voi dice il comunismo è crollato, il capitalismo sta crollando perché comunque in grossa crisi, Cuba sta sempre là, e c'ha ragione su questa cosa, che sta passando al capitalismo e non è così. Però io non vorrei insistere, è facile quando sei un isolotto dei pochi chilometri quadrati con una vita media, turismo anche, sessuale, con un fortissimo turismo sessuale e con una vita media, un'aspettativa di vita bellissima, banalizzazione degli questo ci insegna che parlate di una piccola, per quanto piccola nazione, una nazione che ha resistito a 50 anni di embargo, non voi inventate le cazzate, cioè voglio dire. C'è sta gente scherzata. Che sopravviverà da 100 anni dentro la foresta senza niente. Il discorso è riuscire a portare, volente o nolente, il tuo stile di vita è una condizione, non dico preindustriale perché esagererei, però in cui ti serve soltanto l'essenziale, quindi avere. Ma chi lo dice? Chi ha detto sta cosa? Ma perché a Cuba, di che cosa hanno campato fino all'altro ieri? Che aggiustano le macchine negli anni 50 perché non ce ne stanno di più moderne. Un altro discorso. Ho capito perché lo stile di vita si è adattato a quello che c'era. Oggi rispetto a se c'è le patate, se c'è l'acqua potabile, sopravvivi. Non è che hanno fatto. Cioè, nel senso, altri popoli che sono diventati snob e divanari, magari oggi non ci riuscirebbero. Però voglio dire, non è una cosa impossibile. Se arrivi a una condizione per cui lo devi fare, lo fai. Ah, ecco. Ma non per sminuire Cuba. Cioè, io. Vabbè. No, vabbè. Non è che sono uno sparanzo. Cioè, all'italiano medio gli elevi Netflix, si suicida. Al cubano medio vive di sesso e ballo ed è contento così. Gianni Minà è nato anche senza ballo, il 17 maggio 1938. Ancora sta là. Ma io pensavo fosse morto in realtà. No, non è morto, perché infatti lo chiedevano in chat. Ma non è morto, è stato premiato recentemente. Tra l'altro morirà a breve, perché gli è andato in premio della carriera per caso. Perché sai che quella un premio alla carriera. No, ma mi sa che era tipo la cittadinanza onoraria, una cosa del perché genere. Sai che il premio alla carriera è la morte, praticamente. Dopo un po' muore. E poi, tra l'altro, ragazzi, oggi Napoli ha dato il meglio di sé. Perché il tizio è mutante che si mette a parlare. Alla con fine Conte. Si mette a parlare con Conte. E gli dice: sono avvocato anch'io. Lo sapevi questo dettaglio? No. Io ho visto il video, l'hanno fatto su. Io non l'ho visto, raccontatemelo. Ma guarda, non si può raccontare perché l'uomo in mutande, l'uomo in mutandoni bianchi lo devi solo che guardare. Perché proprio è come. Però è uno degli stereotipi tipici del sud d'Italia. Cioè, lì c'è la napoletanità, perché ovviamente lì secondo me solo un napoletano gli viene in mente di sbuca fuori dal balcone in mutande e parlare col presidente del consiglio, ma poi tra l'altro da balcone a balcone, come lì, si farebbe a Napoli, nei bassi, e lì ancora meglio c'è proprio Edoardo De Filippo, c'è quella commedia napoletana, E dato che ci sono, a questo punto ne approfitto per dire che ha cominciato a parlare in contesto, cioè una situazione imbarazzante, ma bravo. Certo che ci mancava però la vecchia che gridava. No, quella, contro Napoli Conte non è uscito proprio benissimo, diciamo. E chissà come mai, pensate che Conte è pagato per questo, per prendersi vaffanculi, cioè incredibile, no? Ma vabbè, dai, alla fine ci sta. Vabbè, no, io invece dicevo, me lo vedrò questo video, dai. Se lo trovo lo linko sulla chat. Devo dire una cosa, io oggi mi ero avevo costruito le fondamenta della puntata su un coccodrillo. Che non c'è, non c'è. Che però, ragazzi, è Zeffirelli comunque. Possiamo parlare di Zeffirelli, ma io ho scoperto una cosa, Zeffirelli. No. Prima di morire sì, mi risulta che prima di morire fosse vivo. Però ho scoperto, in realtà magari lo sapevo, ma non gli avevo mai dato troppo peso. Lui era praticamente, non so se bene parlamentare o cosa, in Forza Italia. Tant'è che la villa a Roma, la villa a Roma in cui lui viveva, gliel'aveva data in concessione d'uso a titolo gratuito a vita Berlusconi. Sua vita o quella di Berlusconi? No, quella sua. Infatti è già tornato a Berlusconi, era un villone anche molto molto bello. E quindi insomma non mi facevo questo Zeffirelli così, come dire, così forza italiano, ecco. Forza italiano, sì, dai, ci può stare, ma non mi stupisco. Invece ragazzi, oggi raccontavo, ce l'abbiamo la sigla di quell'argomento lì? Aspetta, sta stenografando il regista, sì, mi scuso. Sto delle cose, aspetti, ma quale sigla di quale? Quando dico quell'argomento lì è uno. La Discovery? No, non ce l'abbiamo. Ma sì, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, giusto per entrare un po' in tema, perché abbiamo... Ma così proprio, No, ma non per parlare di quell'argomento lì, per parlare di un... Il 16 giugno del 2016, quindi no, il 19 giugno, scusate, ho fatto un errore di calendario, ci lasciava Pavel Chekhov. Lascialo stare. Ucciso da un panda, poi, tra una cosa bruttissima. Da una panda. Quindi pure femmina. Esatto. Tu vai lì a difendere questi poveri animali. Una Jeep comunque. Vabbè, però era già di proprietà della Fiat Chrysler Automotive. La panda, l'animale. Questa macchina. La macchina. Quindi è ucciso una macchina. Esatto, si è ucciso una macchina che guidata da un ubriaco. No, si è sfrenata sul veretto di casa e l'ha ciancicato contro la parete del box. Che lo stronzo. Un suo colpevole è stato punito duramente. Sì, John Elkann. No, chi? No, purtroppo non so se qualcuno è stato denunciato, perché credo che lui semplicemente. No, la madre ha fatto denunciare la Fiat, ma penso che sia stato solo. Io non mi ricordo. È partita la sigla, quasi mi fa dei segni. Apposta. No, la macchina è chiaro, certo che la macchina era la sua. Ah, quindi praticamente. Probabilmente lui non aveva messo il freno a mano, semplicemente. Ci è stato punito un po' severamente, però non c'è problema. Questa è una lezione di Star Trek. Non c'è però. Problema perché il reboot di Kelvin non andrà oltre i tre film, quindi non ci accorgeremo mai quello che è stato fatto con Anthony Yelchin come Chekhov. Non va da. Dicevo, Terminator Salvation. È stato veramente brutto. Mamma mia, quella con la Dunbeghi. Mi sono anche divertito a vederlo, però. Mamma mia. Cioè, effetti. Quello è da rimuovere dalla. Peggio di Cyborg. No, però comunque, dicevo, insomma, tre anni fa moriva. Si lasciava. Cyborg. Cosa che invece non si può dire del nostro curiosissimo, a cui a questo punto non facciamo il coccodrillo, ma facciamo tantissimi auguri, anche se è veramente tosta, il buon Andrea Camilleri, che prontamente attaccato a una macchina che secerne nicotina, viene tenuto in vita all'ospedale Santo Spirito di Roma. Dai, non è santo tabacco, santo spirito, però vabbè, dai, forza, dai Cami. Sì, anche perché è veramente un simbolo della lotta antifascista, è uno che insomma pane al pane, è uno che se le deve raccontare non te le manda a dire, quindi veramente infatti, il libro pare, perché non è che posso... No, secondo me è una cazzata. Ma non lo so, non lo so. L'ho sentito commentare da più parte. Guarda, quello avrebbe potuto dire tranquillamente. L'avrebbe potuto dire tranquillamente il direttore. Però magari che l'abbia addirittura scritto. Parliamo di Feltri. Però che l'abbia addirittura scritto. No, guarda che ci hanno fatto anche di peggio. Ragazzi, Feltri quando beve è normale. No. Però allora la notizia è stata riportata anche dal Fatto Quotidiano, quindi molto probabilmente potrebbe essere vero. La frase che viene riportata è questa: Andrea Camilleri, mi dispiace se muore, ma mi consolerò pensando che Montalbano non romperà più i coglioni. È proprio nello stile di... Che poi te voglio dire, se non lo vuoi leggere, se tu togli Camilleri e metti Feltri, mi dispiace se muori, ma almeno non ci toglieremo dai coglioni libero. Allora, no, perché qualcuno ha preso su. È vero, no, è vero. Lui non è neanche più il direttore libero, ma il Belpietro. Lui scrive editoriali, così voglio dire. No, tra l'altro, tuttavia, l'arte non ha bandiere. E quella di Camilleri. Aspetta, che non si legge un cazzo questo coso. No, nel frattempo che tu cerchi la frase che vuoi riportare, invece Salvini, una veramente squallida, oggi l'ha detta. Tipo? Perché riferimento ad una zingara che è stata scarcerata perché in gravidanza, e approfittando di questo pare abbia compiuto dei furti a delle persone, lui ha avuto, diciamo, l'idea geniale di fare un tweet in cui dire che questa si doveva non soltanto fare 30 anni di carcere, ma che la dovevano anche sterilizzare per non farle più fare figli. Bello. Infatti è stato linciato dal popolo di Twitter. No, insomma. Ma secondo me prima o poi questo finisce veramente in galera. Ringraziamo sempre. No, perché in Italia purtroppo non ci va in galera per, come dire, lo chiamano reato d'opinione, ma in qualche modo. No, aspetta. Neanche apologia di fascismo stanno ponendo. C'è un limite, perché poi dopo. Tra l'altro, il solito. Comunque, tuttavia, l'arte non ha bandiere, e quella di Camilleri va riconosciuta per quello che è mirabile. Non tutta, ma quasi. Vabbè, oggi di fronte alla probabilmente prossima morte riconosciamo allo scrittore ogni merito, bla bla bla. Beh, insomma, l'unica consolazione per la sua eventuale dipartita, perché giustamente, è che finalmente non vedremo più in televisione Montalbano. Non ho idea. Un terrone che ci ha rotto i coglioni almeno quanto suo fratello Zingaretti, segretario del Partito Democratico. Lui a questo secondo me voleva arrivare, voleva costruire questa frase che poi... Vabbè, invece che poi ha anche poco senso, perché Montalbano è un personaggio, anche se si è interpretato Luca Zingaretti è un'altra cosa. Lui l'ha fatto diventare veramente il fratello di Zingaretti. Che non è poi, Sì, no, lo è. Che c'entra anche... No, lo è. Ma com'è il fratello di Zingaretti? Sì, fratello di Zingaretti. Nicola e Luca Zingaretti sono fratelli? Sono fratelli. E si assomigliano anche. Questo lo dice in anteprima, no, non lo sa nessuno. No, sono fratelli, sì, certo. Mi documento. Allora, invece, ci sono Carmine e Zio Minsky che stanno parlando del fatto che Kunzman sia stato o meno licenziato da... No, è una cazzata. Dobbiamo, ahimè, in certo modo smentirla, nel senso che, vabbè, ma lui, insomma, tra alti e bassi, dai, c'è veramente di peggio, insomma, però... A proposito, sapete che ho visto tutta la serie su Jack Ryan su Amazon Prime Video? Tutto sommato non è male. 8 episodi, ve lo butto lì. Magari esce anche la seconda stagione quest'anno, anzi, magari. Senza magari, esce. Non era male una serie. La serie su Jack Ryan su Amazon Prime Video, spionaggio. Dico, io l'ho vista in questi giorni e dicevo, complice il fatto che quest'anno dovrebbe uscire la seconda stagione, se vi piacciono quelle spy thriller spionistici, ve la consiglio, veramente non è male. Il fratello è vero. Non ci credevo. Vabbè, io mi documento. No, ma nel senso, se tu adesso ti focalizzi un attimino i volti, si assomigliano tanto. Parecchio. Può essere, sì, in effetti può essere. Diciamo che Nicola è più pachidermico, più cicciobombo, anche perché credo che sia il fratello maggiore. Cicciobombo cannoniere anche. Però c'hanno la stessa pettinatura, insomma, la stessa espressione. Così. Sì, questa pettinatura. Sì, è vero, un po'. Beh. Vedi, anche Carmine dice: non è male, Jack Ryan l'ho visto anch'io. Michael Ryan, io mi ricordo i film, ma non era i libri di cosa? Di Tom Clancy, esatto. Allora niente, non lo so. Ricordiamoci, fascista, Tom Clancy morto misteriosamente su una barca in mezzo a un lago, meno male, e che qualche meno cosa, insomma, però continuano a produrre sue derivati dai suoi personaggi, sì, videogiochi, no, serie TV, film. Tra l'altro il primo, quindi, teoricamente potrebbero produrre ancora film su Montalbano. Certo, esatto, ma sicuramente lo fa. Io faccio un quiz. Qual è il primo film in assoluto, tra l'altro un film per me bellissimo, in cui compare il personaggio di Jack Ryan? No, cioè, Cacciatore rosso. Però prima ancora ce n'è, basta. Cacciatore rosso. Ok. In cui Jack Ryan non è il protagonista, è il personaggio di Alec Baldwin che viene citato, ma diciamo ha un ruolo tra virgolette non minoritario. Però sai che non è quello il primo film. Aspetta, mo adesso c'è qualcosa prima. Dico con Harrison Ford. Quello è sotto il segno del pericolo e dopo, ed è lì che Jack Ryan diventa il protagonista. Allora vediamo. Film di Jack Ryan, che poi vabbè, cioè Tom Clancy c'è una fantasia di merda con i nomi, cioè Tom Clancy, che ricordiamo abbiamo detto è morto, perché invece Montalbano come nome, ricordiamo, cioè, vuoi mettere commissario Montalbano piuttosto che Jack Ryan? Vabbè, con una Camilleri con cosa, dai. E noi quello ci abbiamo, allora 5 film con il personaggio nato da tra l'altro ce ne... lo sai che nell'ultima incarnazione cinematografica a interpretare Jack Ryan è stato Chris Pine? Mamma mia, vabbè, cosa, Harrison Ford c'è una certa, insomma. Eh no, però per dire il nostro Chirchino. Ma lì ha fatto parecchie cose opinabili, ma non è senz'altro un attore da premio Oscar, però c'è quello che c'è la bella faccia, gli occhi, sì, che... un po' la faccia da schiaffi. Proprio il personaggio Jack Ryan interpretato nel corso degli anni da Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck e ci saluta Lobby Frontali, che dice stavolta difterito all the way, anche nel senso che dell'acqua che deriva dalla riviera romagnola che la fa venire, quindi buona serata. Sapete che in questo momento è in vacanza, quindi... No, non lo sapevo. Beh, allora buon è divertimento. Vacanza a fare diarrea, ovviamente. Non si è allontanato molto da casa. Cacciatore Rosso, 1990, avete ragione. Bravi. The Hunt for the Red Dog. Cacciatore Rosso che si legge soltanto per Marco Ramius, ragazzi. Per? Come l'anterà, no, sì, Marco Ramius si regge perché c'è Sam Neill, c'era pure Sam Neill. Sì, Sam Neill che era il primo ufficiale, che bello quel film, perché tutti parlano in russo, poi a un certo punto si sono rotti il cazzo dei falli recitare e cominciano a parlare in inglese, americano, americano, ragazzi, perché... è la prima volta che gli americani fanno il cattivo russo più figo del personaggio, cioè... chi è il cattivo russo? Beh, non è è l'antagonista, vabbè, ma definirlo cattivo, sì. lui sta facendo ammutinare il suo sottomarino nucleare, tanto cattivo non è. Per gli americani so che i cattivi e i buoni, cioè non è che c'è, capito? Cioè non è che fanno lui non è cattivo. Sì, però c'è il twist, esatto. Però poteva finire che lui si era pentito d'essere sovietico, invece lui era figo. Io sono un sovietico tutto d'un pezzo, ma visto che 4 anni fa c'è stato Chernobyl, mi cago sotto, ecco il sottomarino. Proprio di Chernobyl. Sotto un cazzo, lui poi alla fine si sacrifica pure, quindi. A proposito di Chernobyl, lui vive, sopravvive. Non vanno a tappare attore a un certo punto. No. Assolutamente no, anzi lui gli consegna il sottomarino, lui e il suo vice ufficiale sono gli unici che rimangono a bordo e mandano via l'equipaggio. Me lo ricordo male, lo confondo con un altro film. Questo film fa schifo perché è fascista. Dicevamo, oggi parlavamo proprio con Gualdi del fatto che ho visto il secondo episodio di Chernobyl, che è praticamente il remake di questo sceneggiato. Miniserie. No, ma non è che è una miniserie, è durata tutta una stagione. È durata tanto, però ripeto, la versione originale dell'86 che si è girata tutta in Russia è stato praticamente il primo reality show della storia. Poi uscito una volta solo, non l'hanno più fatto. No, non l'hanno più trasmesso, no. È vero, però devo dire che questa ricostruzione è piuttosto fedele. E devo dire che mi sta abbastanza coinvolgendo, quasi non sapessi cosa aspettarmi, diciamo. Hanno cambiato qualche cosa, hanno adattato... No, hanno vinto qualche cosa. Niente. No, non ci sono i mutanti come in Chernobyl Diaries, per esempio. L'hanno aggiornato, l'hanno ambientato a giorni nostri. No, non hanno fatto dell'epoca. Hanno fatto semplicemente... Sì, esatto. Sì, poche fantasie. Però spero che sia stato fatto bene, insomma. Beh, guarda, sì, io avrei fatto morire qualche milione di persone pure per cambiare... Perché se già come va a finire rispetto all'originale, almeno cambi un pochino il finale. Fare questa sorta di universo parallelo in cui esplodono tutti e quattro i reattori invece di uno solo. Si apre uno squarcio che ingoia tutto. tutto. Può essere pure che ce la mettono l'aspetto. Comunque, Chernobyl è una miniserie televisiva cinque episodi e britannica. È una coproduzione. Che è creata e scritta da Craig Mazin e diretta da Joan Rank. Andiamo a cercare invece quella. Adesso io cambierei. Con gli MDB siamo tutti bravi. Cambierei quel. Infatti lo dico, sto guardando. No, è via la Wikipedia comunque. Ragazzi, Bologna 1, Italia 0. Bologna 1, Italia 0. Bologna. Ah, ma senza l'Italia. E l'Under 21 l'ho detto prima. Ma cazzo, allora perché stiamo a fare sta cosa? Under 21 cosa? Di che cosa? Che cosa stava giocando? Calcio maschile. Sì, Under... ma cosa? Amichevoli? Europei? L'europei? L'ha detto prima. Europei? Ma dai, so cominciare. Pensa quanto mi piace. Non mi frega cazzo. Vabbè, comunque niente. Dove stanno giocando? In Italia. Sempre in Italia. Si tengono qui. Sì. Cioè, quest'anno facciamo... Sono europei. Sempre al Dall'Ara di Bologna. Dall'Ara. Dall'Ara. Dall'Ara, sì, certo. Cioè, comunque, Wired ci consiglia 5 serie televisive per chi ha amato Chernobyl. Tipo... Che ce l'abbiamo amato Chernobyl? Guarda, tantissimo. Tipo de... Prima di Chernobyl c'avevo i capelli. The Looming Tower, che la danno su Amazon Prime, la conoscete? Ma no, poi vai. Cercherò, non so neanche di che parla. Poi, Deutsche Clashlands 83, Coming Soon, Channel 4. Deutschland 83. Deutschland, sì, penso che sia. Sì, Deutschland. E questo passato distopico in cui... Sì, credo, ma credo sia su Netflix. Love is a Cold War. Una guerra fredda. The Americans, questo a te è piaciuto. The Americans, molto. Mi piace, non vedo l'ora di vedere l'ultima stagione. Mi è piaciuto molto a te. Sì. No. Non so cosa c'entri con Chernobyl. Band of Brothers, che non c'entra proprio. Beh, no, infatti, no, c'entra un cazzo con Chernobyl. Però mi è piaciuto. Secondo me, cercano di far giocare sul dualismo Unione Sovietica contro Stati Uniti, guerra fredda. Alla fine, perché con Band of Brothers sono le ali. No, ragazzi, no, Band of Brothers non lo so. Però spera di Americans. La serie televisiva. Cioè, ma che cazzo c'entra, raga? Cioè, allora, ragazzi, intanto qui c'è un discorso che dobbiamo fare. 1992 poteva anche essere un tentativo coraggioso di costruire un'era. Ma tu devi prendere Stefano Accorsi, buttarlo nell'acido e poi ne riparliamo. Tu, e fare Joker. Allora fai, Stefano Accorsi, parla romano. Sì, è figa. No, c'è Bologna, quel bolognese. Tortellini, romano, tortellini. Cioè, no, allora fai il milanese. Sì, tortellini. Milanese. Non c'è assolutamente nessuna traccia di questa serie televisiva degli anni. Ma che anni erano? Lo ricordate? Ma quale serie? Quella di Chernobyl dell'86. No, guarda, l'86. No, sicurissimo. Aprile 86 è l'anno in cui è scoppiato Chernobyl. E appunto, è una bella serie, fu bellissimo. Asimo, è da oggi che te trollavo, noi stiamo a parlare del fatto vero, lo stiamo spacciando per uno sceneggiato televisivo. No, se lo diciamo è troppo bello, poi dopo facile, così. È divertente, mamma mia. C'è gente che ci ha riso per anni. Infatti sì. Però io mi ricordo che c'era qualche cosa. Sì, sai? Ma probabilmente era qualche cosa. Comunque vabbè. No, ma magari qualche sceneggiata. Ma c'era qualche cosa. Ma c'è stanno, sì, una fatto. Serie forse magari su sempre un incidente nucleare o qualcosa, forse è un'opera di fantasia, però io so solo che mi ricordo sempre quando ero ragazzino, una di queste scene pubblicitarie di questi sceneggiati in TV che mi aveva spaventato tantissimo, perché era il periodo poco dopo Chernobyl, e si vede lo spot di questo, appunto di questo, non so se era un film TV o cosa, in cui queste persone che per qualche motivo in una centrale nucleare erano entrate a contatto con qualche radiazione, che gli facevano, sai, le docce quelle antinucleari? Le docce d'acqua pure. Le docce d'acqua, però in quella scena, in quel momento, in quel contesto a me mi ha fatto un sacco di paura. Perché c'erano questi uomini con le tute antiradiazioni, con questi getti d'acqua che praticamente... E quello era Rambo. Lavavano queste persone. Quasi lavavano queste persone che ovviamente strillavano, si lamentavano. Dici, ma che gli stanno facendo? Lo stavano lavando con lo Zyklon B, ricordiamo, insomma, che. Comunque pare che al Cremlino è molto piaciuta questa serie su Chernobyl. Ma non l'hanno presa benissimo, dice. Non è che sei proprio. Non gli ha dato, insomma, grosso. Faranno un altro dove non è mai successo niente, quindi. Esatto, e poi un'altra bellissima serie sui disastri nucleari è la fantastica serie televisiva di Jericho, ricordate? Jericho, bellissimo. Jericho, anche una di quelle che come al solito partono bene e poi si perdono per strada. No, ma si vedeva. Ho visto prima due puntate, potrebbe essere interessante. No, ma io l'ho vista tutta, devo dire la verità, però... Chiede Peppe Rizzard, dice, ma Chernobyl solo su Sky? Beh, su Sky è dello spacciatore di fiducia, insomma, voglio dire, non facciamo nomi. Si trova. A proposito di spacciatori, ma qualcuno mi racconta bene la storia di quello che comprava la droga alla ragazza al carcio, al gabbio, quei soldi della cittadinanza. No, perché non l'ho capita, mi sembra un po' fantasiosa, un po' romanzata, ecco. Può essere, però insomma, cioè, comunque per raccontarlo però. Corre mito che un tizio sia stato ingabbiato perché è stato scoperto a comprare 22 dosi di hashish con reddito di cittadinanza per poi addirittura portarle alla ragazza che era in carcere per il suo compleanno. Mi sembra un tantinello una trama da romanzo, però romanzo criminale, ovviamente. Romanzo, potremmo fare sì, piccoli criminali crescono, no, perché non capisco intanto per, diciamo, scusate l'ignoranza sul tema, non so come si può utilizzare il reddito di cittadinanza, perché fondamentalmente ti danno questa PostePay specifica in cui ogni mese l'INPS ci carica il tuo dovuto, con la quale puoi fare determinati tipi di acquisti ma non altri, puoi pagare la spesa, puoi pagare le bollette, non ti puoi comprare il cellulare, dicono. Hai per esempio verificato che tra queste spese ci sia l'hash? Mi permettete un secondo. Ma tu hai uno spacciatore col POS? Guardi Walter, un secondo. Io, ragazzi, ho scoperto che esiste il sito. E qui veramente è un momento di commozione. Tuttazzozza.com. De TV, sorrisi e canzoni. Perché no? Sì. C'è quello di Telesette. Io sono più affezionato a Telesette. TV Radio Corriere, voi ricordate l'antagonista della Rai? TV, sorrisi e canzoni. Mamma mia, ragazzi. Non stavo a parlare di... Cioè, sai che da quando ne ho memoria fino ai primi anni 2000 a casa mia non è mai stata saltata una copia una settimana? Poi a un certo punto io mi sono rifiutato, ho detto basta. Ma io cioè dal parrucchiere, giustamente, beh. Dice no, dal parrucchiere, scusami, c'è Famiglia Cristiana, Novella 2000, gente, ma ti uso di canzoni, no. Quello è pure dice Diego Von Morgan, hashish bene di prima necessità, ma lo sai che non hai tutti i torti. E in quel caso con reddito di cittadinanza il problema è trovare, ti ripeto, è trovare lo spacciatore col POS. Però c'è andato poco tempo fa che gli lasciava le ricevute, quindi... Sì, quel genio che faceva la ricevutina, cioè... Tre dosi... Vediamo se vi vengono in mente almeno 5 serie TV sulla fine del mondo. Cioè, nel senso su... Scrivetecele. No, io sto di a voi. Io faccio fatica già a tirare fuori 5 serie TV in generale in questo momento. Infatti è vero, sulla fine del mondo che mi viene in mente? Dai, ve ne dico una io, dai. Così me ne mette Gerico. Cioè, Sopravvissuti, però non me la ricordo. No, bene, ma poi ce l'abbiamo. Revolution. Marco l'abbiamo vista. Vabbè, aspetta, stiamo un attimo, stiamo un po' allargando il concetto di fine del mondo. Il Revolution è la fine della corrente elettrica, mica del mondo. La fine della società come la conosciamo. Esatto, cioè nel senso fine del mondo si intende esatto quello che dice Marco, cioè finisce la corrente elettrica, piombi nel medioevo più... Chiede Carmine Puccio, dice Carmine se c'è il sito di Postal Market. Sì, Amazon.com, perché ormai è quello. Oppure meglio, Wish, questi qua. Ti si incollano i tastini automatici. Cioè, come si chiama? La fuga di Logan, una serie TV però. Zeta Nation, che abbiamo visto io e Marco. Allora, ricordavo Zeta Nation... The Walking Dead pure. No, aspetta, Zeta Nation è fatto dalla Asylum. Quindi ragazzi, se voi sapete, riconoscete questo nome... Sapete di che cosa si tratta e ve la dovete vedere se siete dei fan. Vi do un altro consiglio derivato, ragazzi, vedetevi Blood Drive. Mai sentito? Purtroppo spiega, una sola stagione perché l'hanno pisciato. Prodotto da diciamo una dei maestri del cinema horror trash. Falling Skies. Falling Skies. Ma allora siamo quelli su alieni. Falling Skies è Jericho con l'alieni. Cioè, sì. Fallimento con gli alieni, bene. Però è durata di più. Ma Buffy l'ammazza vampiri? Io non c'ho. No, non è. Ma Buffy dei mortacci tua? No. Perché l'avete? Ma è proprio di buso sì canzoni comunque. Vabbè. Ah, ma tu sei partito tutto da lì per... No, invece, visto che me l'hai fatto venire in mente, vi voglio raccontare di Blood Drive, che è una serie che purtroppo non ha avuto il seguito, nel senso che è stata prodotta una sola stagione. Era stata prodotta da James Roland per Sci-Fi. E, praticamente è ambientato in un 1999 alternativo, ovviamente distopico, dove praticamente una serie di terremoti hanno provocato una spaccatura, una crepa, una specie di faglia nel Mississippi, aprendo una voragine che ha causato cambiamento climatico e temperatura sopra i 46 gradi, l'acqua che scarseggia e tante altre cose. Durante diciamo questo periodo distopico viene fatta una corsa che si chiama Blood Drive, dove praticamente lo scopo dei piloti che corrono è arrivare a vincere questa gara sopravvivendo. La cosa particolare è che è tutto talmente surreale. Anzitutto le macchine, i motori di queste macchine vengono alimentati non a cadaveri, a corpi umani. Cioè praticamente questi motori masticano le persone e praticamente si alimentano, e quindi fanno il pieno. Fanno il pieno di carburante. Ovviamente tra cyborg, zombie, personaggi veramente veramente stranissimi, con tra l'altro anche parecchi riferimenti, diciamo, sessuali. Non è una serie particolarmente, come dire, parca, tant'è che purtroppo io sono dispiaciuto del fatto che non è stata prolungata, perché era di uno strano che veramente come ce ne sono poche, ed era prodotta da una famosa casa specializzata in prodotti trash, che adesso non riesco a farmi ricordare, però quando mi viene il nome e tutti quanti capirete, loro. Quindi però, intanto a proposito di situazioni trash, no? In India, cioè, è successo un piccolo incidente, non so se avete sentito quello del mago? No. Cioè, il mago che è sparito, è un illusionista. Il mago Mandrake, in inglese, ma in Giappone, sì, buonanotte, in indiano sarà stato Mandrake, sarà stato, che praticamente è molto famoso, era molto, o lo è, non lo sappiamo, molto famoso in India, perché praticamente lui cercava di replicare i numeri di Houdini. Allora, cosa ha fatto? Ha cercato di replicare quello del numero di Houdini, che sta praticamente legato dentro a una scatola, okay, e poi va a uscire. Acqua. Si è fatto immergere ed è sparito. Morto. No, è sparito, è scomparso, nessuno ha più saputo che fine ha fatto. Beh, è stato un grande, allora. Sì, sì, cioè, però non si sa se è morto o se è vivo, cioè non è che è ricercato dalla polizia. Adesso è ricercato dalla polizia perché pensano che sia morto, non si sa, è sparito. Ma sta via venendo a fare la dolce vita. No, secondo me è andato indietro nel tempo. Comunque, in questa lista speciale c'è anche The Last Man of the Earth, che... Last Man of Earth. Sì, ok, che... diciamo, è una commedia. Però ci sta, insomma, Michele l'ha visto, io no, però pare che Falling Skies, ovviamente, non poteva mancare, insomma, Marco penso essere vista tutta, io ho resistito. No, allora io ve l'ho detto, noi insieme abbiamo visto le prime due stagioni, guarda, che posso... Addirittura stagioni? Sono cinque, posso riuscire a vederle da solo in inglese, mi sono messo a vedere la prima stagione e mi ha colpito molto, perché nella prima stagione sono rimasto favorevolmente... Ho imparato orgoglio in inglese. Infatti, proprio per questo stavo dicendo, Pride. Nella prima stagione... Cioè, scusa, nella prima puntata della terza stagione non viene nominata neanche una volta la parola Pride o Proud. Sotto Proud, perché Falling Skies è famosa perché in ogni cazzo di puntata di tutte le stagioni la parola Proud o veniva detta o scritta a caratteri cubitali da qualche parte. Cioè, perché voi ricordatevi che l'orgoglio americano dagli alieni, ma il cartellone dell'arruolamento 12x10 Proud. Gigantesco, è tutto completamente intatto con la scritta Proud gigante, è bellissimo. Cioè. E la prima puntata, tra l'altro, non è la terza stagione prodotta da Spielberg. Sì, ma penso che abbia fatto comunque veramente una grossa monnezza. C'è un materiale propagandistico. E comunque sono rimasto colpito perché nella prima stagione, vi giuro, non c'era stato mai un accenno alla parola Proud. No, la seconda stagione. La terza stagione, tu l'hai vista? Ah no, la terza stagione. La terza stagione, la prima puntata neanche una parola. La seconda puntata, I'm proud of you. Ripeto, ho spento e non l'ho più acceso. No, che poi dopo ci so. Allora, è che poi le premesse... Grande Vargion, Troma. Mi pare. Sì, mi pare che fosse proprio Troma. I 100, che bella cagata, ho visto la prima stagione, è una prima. Ah, opera. C'era anche cosa, aspetta. Questo Jericho, Jericho, vedi, viene menzionato. Defiance. Ah, Defiance, è vero. Defiance o mi sembra che era Defiance. Quella lì degli alieni che arrivano tutti sulla Terra, sì, e fanno un casino per sbaglio. E quelli già sono arrivati praticamente. Cioè. Sono già arrivati, sì, infatti. Ci stanno gli alieni albini che stanno sempre a scopare. Ci stanno alieni con i capelli rossi che stanno sempre a scopare. No, non è la Troma, io continuo a cercare. Scusate, ormai mi sono completamente alluppato. Ma pure quella. Ma ce ne stanno delle serie post-apocalittiche o qualcosa del genere, però sono quasi tutte le minchiate totali. Cioè, l'unica che forse ha resistito di più è The Walking Dead, cioè, sai che forse è proprio quella. Beh sì, è arrivato fino alla nona stagione. Musa la faranno curare. Vediamo se conoscete questa serie che si chiama Utopia. Conoscete? No. Un misterioso fumetto racchiude una formula di un'arma biochimica in grado di devastare selettivamente l'intera umanità. Sarà un gruppo di reietti a sventare il complotto. Gomblotto. Però non mi sembra post post perché civiltà. Perché è se pre, no, più pre che post. Sì, esatto. È molto pre. No, no, no, è molto pre. Però a proposito di civiltà, no? No Tomorrow, questo mi piace il titolo. A proposito di civiltà, vi ricordate quella notizia in Italia di qualche tempo fa di quella famiglia che era andata al museo e gli era scappato il ragazzino, sì, si è smontato la barca dell'Ego, sì. Esatto, esatto, è successa una di cosa peggio, di peggio a Basilea, quindi, in un posto più civile, leggermente più civile. Praticamente che è successo, che c'era questa una famiglia italiana, no? No, no, no, era una famiglia tedesca probabilmente, dell'artista di Düsseldorf Katharina Fritsch. Anzi, Katharina Fritsch! Perché bisogna utilizzare. Katharina non mi pare molto. Il titolo da Fliege, che praticamente è Mosca. C'è una mosca gigante che è stata vista da questo bambino di 3 anni. Ha detto che fa. Che fa il bambino di 3 anni che ha la mosca gigante? La Smash! Fa, la fa a pezzi. Spacca e l'ha fatta a pezzi. Ovviamente i genitori, essendo in un paese civile, dovranno pagare 50.000 euro per rifare la struttura. In Italia sono loro che avrebbero fatto caso, come è successo, al museo perché non c'erano adeguati sistemi di sicurezza. Ricordatevi questa cosa, sì, che non sappiamo come andrà a finire. Non abbiamo più seguita, ma sicuramente quelli pagheranno e basta. Sì, sì, sì, ma tanto ci provano. Vabbè, c'è da dire che il danno sul caso dei Lego, il danno al di là ovviamente della perdita di tempo eccetera, è relativo, perché effettivamente si può ricostruire. Distruggere un'opera unica fatta su misura è un po' più complicato. Va bene, diceva Peppe Lizard che a Defiance dava voto 8, peccato che l'ultima stagione l'abbiano dovuta chiudere di corsa. Perché non tutti davano voti 8. Esatto, no, io non gli avevo, con tutta la buona volontà. No, la stagione ho cercato di vederla, però. Ma la stagione non era male, a me piaceva. Cioè, ragazzi, io se credo che ci sia tutto un periodo di transizione che vada, diciamo, dai. Da Lost, da dopo Lost al Trono di Spade, in cui tutti cercavano di fare serie Lost, TV di qualità superiore alla media, senza però neanche scalfire quella che all'epoca era veramente il predominio di HBO, e uscivano delle cose che erano uscivano delle cose che alla fine erano, come posso dire, delle vorrei ma non posso, perché e alla poi fine... Flash Forward l'idea figa ce l'aveva, sì, perché vi ricordate il fatto che l'umanità sveniva per 3 minuti La coscienza viene proiettata 6 mesi nel futuro, e tutti si dicono: tu mi hai visto? Ah, io ho visto che tu hai visto niente. Io ho visto niente. E come mai tu non hai visto? Forse niente. Stavi dormendo, no? Forse. Beh, perché metà della popolazione mondiale in realtà non se n'è accorta perché stava dormendo. Però l'altra metà, se non ti ricordi che cosa stavi dormendo, stavi morendo. In minuti muore un sacco di gente perché incidenti stradali, aerei che cascano. Certo, perché se te spegni mentre stai guidando un Boeing 747. Beh, dici, sono dei sistemi automatici. Almeno 737 no. Sì, ma se stai atterrando. Vabbè, il pilota automatico in volo va da solo. Tutti 3 sì, minuti. No, tranne quelli degli ultimi Boeing che vanno. Sì, gli ultimi Max. Però, esatto, però diciamo che mi è piaciuto molto Travelers su Netflix. Io la sto guardando, ma perché la voglio vedere, però poco perché poco. Io di Travelers so solo che con John McCormack, che è coso, che è Will di Will and Grace, non so altro. Bravo, bravo, bravo. Grazie. È vero, bravo. Pensa che mi dico, ma io questo che cazzo. Ah, sì, è vero, c'è ragione. Poi tutti li conosciamo, ma quante ne sappiamo? Un pozzo infinito di informazioni inutili, come. Allora, ragazzi, in chat diteci qual è la serie post mortaccina che vi è piaciuta di più, perché ci fa piacere sentire questa cosa e poi magari insomma E soprattutto, come vorreste che fosse la fine del mondo? La vorreste con gli zombie, con l'esplosione nucleare, con un virus che impedisce agli esseri umani di riprodursi? Come la vorreste? Io un'idea me la so fatta. Io ce l'ho, sterilità e vaginismo. Io spero che l'esplosione nucleare sia abbastanza vicina a me da non farmi sentire praticamente niente, perché penso che te ne accorgi a malapena, piuttosto di dover poi passare i giorni successivi a brancolare nel medioevo, a miagolare nel buio, cioè a miagolare nel buio, esatto. Sono una gatta in calore anche. Io mi immagino invece un mondo in cui tutti sono dei 5 stelle e fanno complotto e poi muoiono tutti di virus. No, Marco, c'è un problema, che se tutto il mondo tutti fossero dei 5 stelle non avrebbero più nessuno a cui urlare complotto. Questo è quello che pensi te? Questo lo dice lei. No, è vero, sono abbastanza stupidi da riuscirci. No, no, ma già lo stanno facendo. Tra l'altro avete letto che ovviamente, per non smentire mai la loro cialtronaggine, la loro ipocrisia, oggi Di Battista ha detto che se cade il governo lui si ricandiderà sicuramente, che chiederà una deroga alla regola dei due mandati. Sì. Vabbè, ma basta. Di Maio o Di Battista? No, Di Battista l'ha detto. Ma quando ha fatto i due mandati, scusa? Ne ha fatto uno da senatore adesso. Che cioè precedente al governo precedente, non in questo governo, in quello precedente lui c'aveva, lui era, non mi ricordo se lui era o deputato o senatore, deputato probabilmente, deputato. E quello è il primo mandato, il secondo sarebbe quello in cui lui andrebbe in carica, che però sarebbe un governo transitorio molto probabilmente, perché non sarebbe subito un governo di 5 anni se non ci fossero le elezioni. Quindi lui dice: io mi candido subito, però dopo eventualmente me ne voglio fa uno intero dei 5 anni. Ma se si candida ci saranno. Anche perché nel frattempo lui sarà andato. No, non è detto. Importante. Sì, no, vabbè, ma ripeto, è facile fare i proclami, massimo due mandati, questo è quello, fin quando non stai al potere tu. Quando stai al potere tu crei sempre le eccezioni alle regole. Vabbè, guarda che il primo è stato Di Maio. Sì, ma allora io vi ricordate che loro dicevano che i capi sia del partito che all'interno delle istituzioni dovevano stare in carica 6 mesi. Ripeto, finché non toccava a loro, quando ha cominciato a toccare a loro, hanno sentito l'odore della poltrona, il culo sulla poltrona comoda, l'odore dei soldi, e ci hanno già cambiato idea. Ma era successo già all'epoca a Parma con Pizzarotti, no? Che tu dici: ok, se uno è un, come dire, un una persona adatta a fare un tipo di mestiere e decide di buttarsi in politica, tu non gli puoi dire dopo un massimo di 10 anni: ok, guarda, hai fatto il tuo, adesso torno al tuo lavoro precedente. Perché dopo 10 anni che hai abbandonato la tua professione per dedicarti alla politica, devi avere un futuro in qualche modo, no? E poi se sei capace, se ti sei dimostrato capace, ma perché devi smettere e magari lasciare il posto ad uno che è una pippa? La meritocrazia non si misura, secondo me, nel numero di mandati, ma nella qualità di quello che fai. Esatto. Quindi, anche se fai degli errori, tipo quello che è successo a Shaukat Yousafzai, a te e a Soreta. Esatto. Così, per no, non sbagliare. Ma se ho messo sta musichetta perché mi... No, sì, ci sta, perché Shaukat Yousafzai a te e a Mamad è un ministro pakistano. Bellissima, sì, ragazzi. È un ministro bellissima. Pakistano, nonché funzionario governativo, che è tra i massimi esponenti del movimento della giustizia, capito? Che è uno dei partiti che, diciamo, quelli che compongono l'attuale governo del Pakistan. E praticamente ha fatto un cercato, sì, stava per fare una conferenza stampa, e ha detto: facciamo una cosa, facciamo una bellissima diretta su Facebook. Come fanno il Movimento 5 Stelle? Come fanno il Movimento 5 Stelle, ma come fa anche Salvini, certo, fa anche lui. Soltanto che si è dimenticato, o ha fatto un piccolo errore, ha messo il filtro gattino. Praticamente ha fatto tutta o gran parte dell'intervista con la maschera da gattino, che in real time, che gli compariva sulla faccia. Non vorrei dire, però il Pakistan c'ha la bomba atomica, vedrai che la sganciano su Seul, cosa che non è riuscita mai a fare Kim Jong-un, insomma, perché voglio dire, a un certo punto Kim Jong-un, per l'umiliazione della figura di merda, nuclearizzo Seul. Mi sembra anche giusto. Si dovrebbe nuclearizzare da solo. Comunque, attenzione a non parlarne troppo forte, perché c'è chi tra i commenti di queste notizie dice: raga, non fatelo scoprire al capitano, sennò questo si pia tutto con una botta, con la diretta si pia tutto quanto. Perché se mette la maschera da gattino sopra è finita. Sì, esatto, c'è manca solo il gattino a Salvini. L'altro giorno si è cagato sotto sul tetto del Viminale, perché il mistero all'interno del Viminale, perché lui era salito a fare la direttina come al solito. A un certo punto un gabbiano l'ha aggredito, gli si è terrorizzato durante la live. Il gabbiano incazzato. Qualcuno gli ha fatto notare: guarda che i gabbiani vanno dove c'è la monnezza. Fatti due conti. Vabbè, la musica è finita, gli artisti se ne vanno, giusto Pizzi? No, sì, stavo a leggere una cosa... Troppo cazzi su, beh. Un po' triste, ma... Io lo licenzierei sto regista, posso dirlo. Ma mettiamo io del gattino, questa, no? Che mi piace. Mettiamogli un bel filtro gattino e passa tutto. No, filtro gattino, ma in realtà sto leggendo proprio della notizia di un gattino che è morto. No, non la dire, perché ci dispiace. Invece sapete che stavo leggendo sempre notizie di calcio, perché adesso siamo nel calcio, nella fase più attiva del calciomercato, gli allenatori si stanno, come dire, posizionando nelle nuove panchine. Leggevo invece che il Parma potrebbe prendere Balotelli, ragazzi. Ma allora io mi sono domandato: no, prendi Balotelli, addirittura qualcuno ha mormorato che potrebbe addirittura prendere Buffon. Allora dico: ma scusa, chi? Il Parma? Beh, ma Buffon c'ha un senso che va al Parma, perché... Ma io a questo punto vorrei lanciare un appello, è ragazzi. È un ritorno, cioè, un modo di... Lo vuoi un usato sicuro come Piazzava? Cassano, ragazzi. Ma tutti e tre anche, Sì, un bel trio, secondo me si può fare, voglio dire... Buffon in porta, in attacco metti Cassano e Balotelli. Cazzarola, hai fatto mezza nazionale dei mondiali, eh? Io dico Parma, fateci un pensierino, ne saremmo tutti così contenti di riabbracciare questi campioni che anzitempo hanno dovuto lasciare la maglia, soprattutto Cassano, perché gli altri bene o male stanno ancora giocando. E io non mi do pace fin quando Cassano non torna a giocare. Che tristezza. Comunque io avevo appena letto una notizia allargamante, perché ho scoperto che praticamente il film Avengers Endgame tornerà di nuovo al cinema nella versione estesa? Nella versione fottutamente estesa. Come ho scherzato? Con scene inedite, ti giuro. Lo sto leggendo adesso. Ancora non si sa dell'uscita precisa di questa nuova edizione estesa, ma a questo punto non dovrebbe mancare molto, forse già dalla prossima settimana. Cioè probabilmente quindi... ti danno il catetere invece di occhiali. Assolutamente, assolutamente. Se c'hai due reni, dura parte... già quello normale. Dura tre ore, mi sembra. Dura tre ore e qualcosa, però quello con normale. Però con sì, i titoli. No, fatto benissimo, non venire. Però con i titoli, capito. Con i titoli, sennò dura 50, una cosa del genere. E lo so, ma tu non puoi non vedere i titoli di coda nei film. No, ci sta un cazzo dopo. Lo so, non lo dove. Guardi, e ti puoi fare cazzi. Però secondo me in quello, nella versione estesa è quello che faranno 20 minuti in più di titoli di coda e scena dopo post credit. Che ti dicevo, regà, pure stavolta avevamo messo a culo. Non ce l'avete messo stavolta. Bellissimo. No, invece... comunque se volete ci sono online, cioè online la pagella di Greta. La pagella di Greta a cosa? Scolastica. Ah, per far vedere che di quella del clima lì. Sì, sì, di quella del clima. Però che banalizzazione, cioè siamo riusciti in Italia ma nel mondo a banalizzare pure una poraccia, perché è diventata una poraccia. Della poraccia la stai banalizzando, è diventata una poraccia. Perché una poraccia, scusa? Perché è diventata una poraccia, perché è diventata l'hanno strumentalizzata un sì, po' tutti, Un meme, è diventato un meme, sì, umano, sì. Ma anche di quelli che... c'è la scena aggiuntiva imprescindibile in cui Hulk si infila un dito nel culo. Dice, ricordiamo invece, dice giustamente Davide Gatti, sapete, è vero che ha fatto 4 episodi speciali di Survivor Hacking dove parla di tutta la filmografia Marvel? Ma perché? Davide, ma te t'ha preso brutto però, eh? Ho visto che fai queste recensioni, che a volte sono divertenti però, eh? Pure insomma le parole implacabili su Discovery. Io devo dire che su Survivor Hacking sono leggermente indietro col palinsesto. Mi devo riprendere. Metto la musica apposita per questa cosa. Ti senti più buono? Ho ho ho! Ti senti? Merry Christmas! Senti anche un po' più fresco? Porca troia, guarda, quasi quasi mi metto la pelliccia di visone, sento freddo. E niente, così volevamo un attimo... era per stemperare il clima di tensione che c'era. Ma sì, proprio era palpabile nell'aria, si tagliava con il coltello, con il grissino si tagliava. Vabbè, io però posso dire che abbiamo portato quasi a casa la puntata, stavolta indolore quasi. Cioè non ce ne siamo neanche accorti, cioè, ma di che parliamo? Fino abbiamo parlato a manetta per un'ora e mezza e... Vabbè, siamo diventati un quarto d'ora nel futuro. Io non vi ho raccontato ancora dei miei lavori casalinghi. Hai lavato i piatti? No. Hai fatto la lavatrice? Ho guardato la gente che fa i buchi dentro casa mia. Marco, certo. Ti ci vedo a fare l'ummarello a te? Cioè proprio, c'è proprio l'impostazione. Sto allenando, signori, diventerò il capo medaglia d'oro di marellaggio di Marco Rotondo. Allora, il compleanno di Gualdi quando ricade gli dobbiamo regalare la coppoletta, ragazzi, la coppoletta da ummarello. Esatto, il baschetto tengo, quasi fantoziano. Comunque hanno cominciato finalmente i lavori a casa mia, così inaspettatamente, neanche me lo sono creso, e hanno aperto tutta casa, cioè... adesso non c'è più niente. No, gli operai sono riusciti dove Cusella e prima ancora Arnaldo non erano riusciti. Colpa di Cusella, era stato chi era prima? Ronaldo, no, perché ho dato dell'Arnaldo, il padre di mio amico, Arnaldo. Non ci fate caso, vabbè. Gustaldo. E praticamente adesso c'ho tutti i buchi dentro casa, è stato bellissimo. Però è bellissimo perché l'elettricista, cioè quello che mi sta dicendo, che è il capo del capoccia, parla più o meno così. Allora qui vedete qua c'è la scala di derivazione, perché poi passa il tubo, quindi l'ho messo qui sopra, perché dopo scende sotto, quindi passa dietro, poi la scala di derivazione, poi le altre qua, e poi dopo qui spegni tutto quanto. Amegiano, rifatti la foto che sei peggiorato. E io dico va bene, Ok, quindi potrebbe essere che ho quattro luci nella stessa stanza e una camera buia. Potrebbe succedere. Senti, tutto. Ti devo esprimere la solidarietà dei nostri amici in chat, perché Diego Von Morgan ti dice: no, i lavori in casa no, in bocca al lupo. E invece Davide Gatti dice: ma i lavori a casa tua sono a tua insaputa? Cioè, assolutamente in mia insaputa. Però sul mio conto, no, non so, allora lui sa che ci sono i lavori, perché a casa, ma non voglio a sua insaputa. Cosa fanno? Cosa troveranno? Cosa stanno facendo? Ti potrei trovare una casa più piccola o più grande, se sono fortunato. Potresti trovare anche i vecchi proprietari che erano spariti. Probabile. Anche trovare, perché, quella, ragazzi, di sopra che ti casca nel letto direttamente. Per vabbè, la cugherona lì. Però ricordiamoci che Gualdi ha comprato quella casa all'incanto. Sì. Quindi nelle pareti ci può essere qualunque cosa. Ci può essere l'incanto, infatti. Ci può essere l'incanto, esatto. Che bello quello, insomma. Sì. Perché io sto. Il business è comprare le case dove c'è stato appena un omicidio. Sì. Vero, costano di meno. Vero, costano molto di meno, insomma. Cioè, la casetta di Perugia. Costano il K2. Esatto, tranquillamente. La K2? Il problema è che se questa casa sta tipo Torbella Monaca, non è proprio il massimo. Però se stai in un quartiere, allora, c'era una villetta poco fuori Perugia che veniva via con pochissimo qualche anno fa. Sì. Infatti, perché bisogna averci i soldi contanti per fare l'affare. Sì, per fare l'affare sul momento. Che poi alla fine una mano di vernice passa tutto. Ma sì. E invece potrei anche raccontarvi che oggi mi sono andato a tagliare i capelli. Zomski sta andando a dormire, lo ci saluta, lo salutiamo. Ciao. Però ti perdi il racconto di io che mi sono andato a tagliare i capelli. Cazzo ce ne frega. No, ma io ho scoperto che Marco è proprio un borghese. Perché non va da lì a babà a tagliarsi i capelli. No. Ma guarda, lui però è un po' paesanotto, Marco. Un po'. Diego vuole sapere dove sono tutte queste case omicidate. Marco, tu che sei specializzato. No, lo so, io infatti sto a cercare di capire dove stanno. Perché se, ripeto, se stanno a Torbella Monaca non conviene. Quindi però bisogna andare in quartiere. A Torbella Monaca. Dovremmo, Pizzi, lanciamo un franchising. Ma amici che possono farti fare degli ottimi affari a scatola. Chiediamo se vuoi. Taffo. Ci avremo un franchising, loro si occupano dei funerali e noi di acquistare come si faceva case. Tanti anni fa, ti ricordi? Tu anzi, veramente è un pacchetto completo, cioè esatto. Nel senso, signora, lei non ha i soldi per fare il funerale, ci vende la casa e ci abbiamo anche il cassamortale. Ma regà, ma Taffo non è nessuno, voi ve lo ricordate? Negli anni 80-90 c'era tra virgolette fuori dagli ospedali, no? C'erano queste c'era tra virgolette assurdi. No, nel senso, questo l'omino si avvicinava e ti proponeva il servizio funerale. Se Sabbiocca non si muove, 29 29 29. Grande. Questa è una citazione che fuori Roma non vale niente, ragazzi. Il problema è se Sabbiocca e dopo si rimuove. Ciao. 69 69 69. Ma in realtà io credo che questa cosa si possa... Ha detto che aspetta il racconto, quindi praticamente oggi sono andato dal mio barbiere di fiducia. Sperando che ci fosse il figlio. In realtà il figlio non c'era, perché proprio questo barbiere è ormai una, diciamo, una famiglia. La soddisfazione è il nostro miglior premio, il nostro miglior sfregio. Allora, praticamente c'è il nonno, ormai il figlio e il nipote. Tre generazioni di parrucchieri, ragazzi. Esatto, tre generazioni che non ne fanno una. No, Marietto e Mario. E Mariuccio. E Mariuccio. Allora, praticamente speravo ci fosse il figlio. Il figlio è tanto bravo, c'è pieno di tic. E capisci anche che, insomma, avendo una famiglia di cose ci può stare. Però tanto bravo, tanto simpatico, caruccetto. Io gli ho mollato una seccia all'Italia quando ho detto che ci stavano dando soddisfazioni. Vabbè, andiamo comunque avanti. Vabbè, in ogni caso mi vado a tagliare i capelli e c'era il mezzanino, cioè il padre, il papà, che è più magano. L'ho visto, insomma, che stava lì un po' ciancicava così. Però vabbè, cioè, c'è avuto anche un'operazione recentemente, non se la sono passata proprio benissimo con la famiglia in generale. In generale, praticamente, cioè, ti faccio, cioè, sta bocca che è nato. Poi ha cominciato a tagliare i capelli, fin lì tutto bene, fino a quando non ha cominciato a sbavare. Sbavava copiosamente, cioè proprio gli scende la bava. Marco, il fascino che fai tu agli uomini. Sì, infatti, spero che non mi abbia sbavato sulla testa, perché sarebbe... Ah, non è gel? No, però il problema è che dopo si è lavato, ha messo una cosa rossa sulle mani, l'amore. E dopo mi ha spassato l'amore sui capelli. Mamma mia. Però sono lucidi, belli, pomposi. Io ho avuto paura. E noi siamo un po', come dire... Tu sei schifato, ma tu immagina di uno che ti sbava le spalle con un rasoio in mano. A me mi viene in mente la scena di Tutti i pazzi per Mary, e adesso io sono un po' inibito. Oddio, sì! No. Sì, qualcosa sui capelli. Esatto. No, qualcosa qui sull'orecchio. Ah, sull'orecchio. Vabbè, finito questo racconto stupido. È finito questo racconto stupido. Comunque, immaginatevi uno che ti sbava le spalle con un rasoio in mano puntato alla gola. Ecco, quello mi sono sentito un po' male. Così ti impari ad andare. Hai anche un po' di schiato. Quando è così, puoi andare da. Che male che vai, tira fuori il cobra. Perché si via. Sempre meglio il cobra col pitone. Mentre che ti è stato ieri, mi sento io. Che razzisti di merda che siamo. Mamma mia, comunque stereotipi. Perché ricordiamo che qualche tempo fa, praticamente nelle vicinanze sia di Casa Pizzi, dell'ufficio di Gualdi e dell'ufficio mio, ha aperto una sala da barba. Comunque, bangarina. Era meglio che me l'andavo. Sì, buonanotte. Sogni d'oro, soprattutto. E questo salone di parrucchiere è stato chiamato Ali e Babà, che è tutto un programma che pare. Poi chi c'è dentro? Ali e Babà. Ali e Babà, e poi dice che uno dice chi è Babà e chi è Ali? Meglio non chiedere. Chi sono Babà? Babà è quello napoletano. Che sono un babà, va. Vabbè, che dire, terribile. Vabbè. Oh, bravi, bravissime persone, tutte bravissime. Ragazzi, sono le 22:22, fin quando è palindromo, ma salutiamo tutti e andiamocene. Sì, infatti, prima che sia troppo tardi. E su questa epica musica che ci accompagna e fa salire l'amore che noi abbiamo verso di voi e l'amore che Marco ha avuto nei capelli. Esatto. Noi vi salutiamo per questa puntata, dandovi appuntamento a mercoledì prossimo con OGM Ottimisti Genericamente Mortificati, qua su Runtime Radio con Walter Sbano. Ciao, alla prossima. Ma lo facciamo un programma estivo? Cambiamo format? Ma io infatti sì. Adesso tra un po' lo cambiamo idea, perché Marco Gualdi, ciao. Io ho tanto sonno a questo momento perché l'amore che mi è sceso infatti sui capelli è sceso, è entrato nei pori della pega. Esatto. Ciao, alla prossima. Buonanotte e ricordatevi, se vi capita, andate su www.runtimeradio.it su Runtime anche io e sì. Fate una donazione, brutti stronzi. Marco, però ti ho detto un sacco di volte, non c'è Natalie e Buccache che te fanno un casino chi i capelli. Lo so, ma costa poco. Lo so, però poi ti rimangono appiccicosi. Costa poco, quella lì babà costa poco, cioè quella che ti sbubba sulla cavoccia. Non costa di più.